Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. 8-18 minuti, eccoci caro Oscar Giannino. Eccoci qua, buon inizio di settimana, una settimana di festa, però insomma tutti siamo qui al lavoro sperando che tutti siano... C'è gente anche che è già in vacanza, Ma io mi auguro sempre che insomma mal comune e mezzo caudio, come si suol dire, no, d'accordo. Allora, oggi un augurio, visto che è San Pietro Canisio, a coloro che si chiamano Pietro e festeggiano oggi, non Pietro e Paolo, che di solito è fine giugno. Pietro Canisio, uno dei più efficaci, potenti bracci destri, ne ha avuto più di uno, insomma, di Ignazio di Loyola nel costruire la rete di potere dei gesuiti in Europa. Però, ma sempre incuriosito questa cosa, come si decide se uno fa parte di Pietro di San Pietro e Paolo o Pietro di San Pietro e Canisio? Cioè... secondo, voglio dire, le consuetudini, se uno crede e decide di festeggiare in un giorno o l'altro dei santi omonimi nel calendario liturgico, lo fai nel giorno in cui quel tipo di San Pietro lì è più vicino a quello che sente come la propria. Quindi oggi è una roba di organizzazione della fede a fine di potere, Bertone, direi più. Bertone, va bene. Colui che ha che ha in sua insaputa si è fatto ristrutturare casa, ma ha restituito. Guarda che sono già pronti, caro Oscar, a dire che poi sei l'anticlericale. No, ma non sono l'anticlericale. Oggi Repubblica, c'è un bellissimo pezzo di Jenner Meletti che dice che ha oramai un bel po' di tempo, mesi, dalle accorate e giuste e condivisibili parole di Papa Francesco, in realtà di profughi italiani nelle vescovi, nelle parrocchie italiane ce ne sono poche centinaia. Cari ascoltatori, sì, nel frattempo il vescovo di Oppido Mamertina, Francesco Milita, diceva, un parroco arrestato ieri per pedofilia nega tutto ai carabinieri, non bisogna parlare di queste cose, lo cacciano, eccolo, questo Francesco Milita lo cacciano, eccolo. Voglio sapere, lo cacciano? Spero proprio di sì, spero se la linea è quella del nuovo Papa, è abbastanza rigoroso su queste cose. Questo si è detto per gli ascoltatori e con un po' di amara ironia, solo perché la stragrande maggioranza di chi compone la Chiesa non è così, punto, ecco. Infatti, allora, però a me ha anche colpito invece leggere di Monsignor Mogavero tranquillamente sul Fatto Quotidiano. Sapete che è accusato anche lui di aver preso 180.000 euro. Tra l'altro è accusato da colui che è stato accusato in passato, il magistrato di Pisa, di essere il corvo di Palermo. Poi ovviamente fu assolto da tutte queste cose. Ma però... tutta la sua vita professionale è stata segnata da quella vicenda. Esatto, e adesso lui, che fu accusato di essere il corvo, è il primo a dire, insomma, se poi ho sbagliato, Monsignor Mogavero mi perdonerà. Singolare modo da parte di un magistrato, no? Singolare modo, anche lui dice, in fondo, siccome abbiamo dei dubbi, dobbiamo capire, l'unico modo era indagarlo per poterlo interrogare. Io, insomma, sono Massimo Mogavero, ma ripeto, non è che lo conosco personalmente, ci ho avuto solo a che fare professionalmente. Mi sembra una persona onesta, ma staremo a vedere. Comunque, caro Oscar, è Natale. È quasi Natale. E quindi... allora vedi che Equitalia... Ho già capito. Ma mi piace Equitalia, questa finzione di Equitalia. Equitalia per Natale. Sa che è Natale, sa che non bisogna rovinare i cenoni, i brindisi, i capodanni, il bel sentire, il bel godere, e quindi Equitalia per il periodo di Natale non manda, non scriverà, non vi penserà, ma esatto, non vi scriverà. Certo. Non vi scriverà. No, non vi recapiterà, che sì. Non vi recapiterà. Scriveranno senza recapitare, cambiano, cioè quando si arriva a queste melassose campagne, vuol dire che c'è la consapevolezza di quanto si abbia perso la credibilità, perché quando si arriva a fare le finte recite natalizie, per favore, grazie. Non ti piace questa cosa? No, mi fa sorridere. Sembra mi fa... un po' una pagliacciata, diciamo. No, non dico una pagliacciata. No, nel senso, non mi far dire cose che non penso. Penso che sia semplicemente una tardiva e parziale assunzione di consapevolezza di quanto sia sotto i tacchi nella costellazione italiana. Quindi, e almeno a Natale. Viva la battuta. A Natale non viva la battuta. Ma... comunque, 800 24 00 24. Oggi, secondo me, Oscar, non so se sei d'accordo, l'articolo migliore di Fabio Martini. Bettini sulla stampa, sì, a raccontare che è un Renzi show. È un Renzi che deve recuperare un po' di consensi. Ieri è andato da Giletti, sentiamo. Loro fanno un'opposizione che regge fino a che sono accese contro il Movimento 5 Stelle. Stanotte, quando i nostri deputati erano in aula, se ne sono andati o si sono ammalati tutti insieme, la famosa febbre del sabato sera. È un'accusa oppure, pesante che lei fa. No, le voglio dire che però che bisogna pensare all'Italia. C'è un Renzi che insomma è partito in quarta. La scelta di Cantone, che è una persona molto popolare, code. L'attacco alla Merkel, Renzi che va in TV, Renzi che rispolvera le battute, insomma un Renzi che deve recuperare un po' di consensi, capisce che politicamente rischia di scontarla un po' sotto sta cosa. Tom. Sì, rischia di scontarla. Io penso che alla fine, senza approfondire perché non è il caso, il voto spagnolo, però il voto spagnolo mostra che tutte le presunzioni dei grandi partiti che sono convinti di essere i due binari, no? Le due traversine di un binario, poi alla fine fanno i conti con la realtà, e la realtà è che poi non ci sono i governi, perché le elezioni vanno diversamente da come pensano i grandi leader. Io credo che sia un po' il segno degli ultimi mesi di Renzi, però vedremo. Che ti devo dire, degli ultimi mesi in che senso? Cioè degli ultimi mesi passati? No, gli ultimi mesi che abbiamo alle nostre spalle, cioè una perdita progressiva di consapevolezza che non è solo con lo storytelling ma con cose concrete, come ha detto ieri Dario De Vico sul Corriere in un bell'articolo che mi è piaciuto molto, a proposito della legge di stabilità. Va bene, la vicenda delle banche ci ha distratto legge di stabilità, ma a stringere è mille commi e un passo indietro, più deficit e senza spending review. In queste quattro affermazioni di Dario De Vico c'è la sintesi di una cosa che secondo me non ha funzionato. Cioè, nel tu dici paese. Che lo storytelling da una parte poi si scontra con la realtà di vecchie abitudini, vecchie consuetudini. Sì, ieri Sergio Rizzo raccontava anche delle leggi mance, delle cosiddette marchette, non si offendono né i parlamentari né coloro che le hanno ricevute. Per carità di Dio, uno apre i giornali. E oggi, che per esempio, la stampa, oggi c'è un bellissimo pezzo di Giuseppe Salvaggiore, il tram di Palermo, anzi non è di Giuseppe Salvaggiore, del suo, ecco, Lauranello, perché Salvaggiore dovrò parlare più avanti, però il tram di Palermo, e la gente ha di fronte a sé storie di questo tipo, cioè tre linee tranviarie con 320 milioni di euro spese, e tutti i giorni le carrozze vanno in giro vuote per la città, perché nel frattempo i partiti non riescono a mettersi d'accordo su come finanziare, loro vanno in giro vuote. Sì, chi deve gestire, cioè i passeggeri non possono entrare e salire su questi tram che nel frattempo vanno avanti, capito, indietro. Ecco, questa è l'Italia, l'Italia è questa qua. Quando il Renzi dice con una battuta così, troppe banche di paese, ci vogliono più banche per il paese, non credo che possa evitare il fatto che moltissimi italiani da questo intervento sulle quattro banche a un nome hanno paura per i propri risparmi in qualunque banca siano, hanno capito che governo, Banca Italia e Consob non si parlano tra di loro, hanno sospetti l'uno verso l'altro. Secondo me non è con una battuta che si recupera. Beh, però le battute, gli slogan hanno sempre fatto parte, come dire, di una parte del modo di governare di Renzi, cioè il famoso storytelling, sì, appunto, sì, la narrazione, il racconto, quegli slogan che poi, almeno nell'ottica del Presidente del Consiglio, possono in qualche modo rimanere, no, lì come titoli di giornali, e possono, no, pensa al decreto Happy Days, no, poi è chiaro che bisogna riempirlo di contenuti. Se rimangono, cosa sono, su cui però poi sono gli slogan deficitari. Anche perché voglio dirti, per esempio, oggi sul Corriere della Sera, uno dei più quirinalisti, più autorevoli, accreditati e sicuramente ben informati d'Italia, Marzio Brede, ci dà questa interpretazione autentica di un'altra delle vicende che a me non piacciono, avvenuta nel fine settimana, quando poi la stampa, Tonio Mastroboni, ha scritto: la realtà è che Visco è andato, il governatore della Banca d'Italia, è andato al Quirinale perché era pronto a rimettere il mandato di governatore messo in discussione proprio da Renzi, e il capo dello Stato lo ha pregato di restare. Ieri il Quirinale smentisce tutto. Io mi interrogo sul fatto che noi dobbiamo sapere cose così delicate solo attraverso queste ricostruzioni totalmente opache, mi sembra una cosa da Corea del Nord. Marzio Breda oggi spiega che la linea del Quirinale vuole un sistema stabile. Cosa vuol dire stabile? Vuol dire fermo, immobile, opaco, di cui che non si può mettere in discussione? No, stabile non è opaco. Stabile significa nessuno deve andarsene. Il prestigio delle istituzioni. Io voglio sapere se Banca Italia in questi anni è in grado di fare un'intervista vera, non come quella di Repubblica di ieri, dove ieri non c'era una sola domanda seria. Repubblica. No, non l'ho seguito invece da Fabio Fazio, volevo sentire una parte di Ignazio Visco, però certo anche in questo si vede un governatore di Banca Italia che evidentemente è raramente parla, e invece ora, prima Repubblica, esterno, ora in TV per parlare agli italiani, insomma capisce che il momento è così. Per la verità lui ha detto che era già fissato da tempo l'incontro con il capo dello Stato, ma chiaramente poi vai a sapere. Visco. In realtà è nel corso del 2014 che si è andata deteriorando, e già nella prima metà, quando gli era stato richiesto di trovare un partner con cui aggregarsi, abbiamo visto difficoltà nel trovarlo, forse anche difficoltà nel cercarlo. Partner, immagino, di Banca Etruria. Però ripeto, noi conosciamo ormai atti, scritti, opinioni rese che mettono profondamente in discussione la versione ufficiale e senza domande ficcanti di Banca d'Italia. Ma basta vedere oggi Repubblica, ecco, racconta bravo. Fabio Tonacci, bravissimo, che c'è la testimonianza del capo degli ispettori di Banca Italia, quindi di Banca Italia stessa, che è già stata raccolta dalla Procura d'Arezzo, e questo ispettore, che si chiama Emanuele Gatti, raccontava già nel 2012 Banca Etruria era governata da consiglieri di amministrazione quasi tutti privi di competenze specifiche, e c'era a fianco al consiglio di amministrazione un direttorio parallelo al cui capo c'erano, nel quale sedevano il presidente Rosi e i due vice, Berni e Boschi, che è il papà di Mariana Boschi. Vabbè, insomma, una storia già nota, lo dico perché insomma tutte le volte ormai lo conosciamo, e c'era quindi qualcosa che non andava. Ispettore di Banca Italia nel 2012. Ecco, allora capisci, siccome per Banca Marche è così, per Cariffe è così, nella ricostruzione degli atti di Banca Italia troppe cose non tornano, solo che a fare domande esplicite non si viene scelti come intervistatori, questo è evidente, perché l'intervista di Repubblica bastava confrontare ieri le 10 domande che il Fatto aveva preparato con Stefano Feltri e le domande dell'intervistatore del governatore della Banca Italia su Repubblica non c'è nemmeno uno. E a me dispiace, questa maniera di affrontare è classicamente italiana la grande crisi, cioè ciascuno indica con un dito gli altri, il governo indica Banca Italia e Consob, Banca Italia dice che ha fatto tutto quello che doveva, Consob la stessa cosa, e dopodiché in realtà così i risparmiatori, i cittadini, i contribuenti non sapranno mai davvero come sono andate le cose, perché è una strategia che serve apparentemente ad incolpare tutti, in realtà ognuno copre spalla contro spalla gli altri, e a me questo modo di procedere non piace. Piace. Allora 800 24 00 24, noi tra l'altro, caro Oscar, parleremo di Iraq, sì, dopo, perché nel silenzio generale si avvicina anche il Natale, ma tra poco militari italiani andranno in Iraq, dovremo andare a Mosul al nord per difendere questa diga, sapete che l'acqua è importante sempre, è importante soprattutto in quei territori, cioè, ma che vuol dire che torniamo in un paese, cioè torniamo in guerra? No, perché in Italia non si può dire, però se ci sono lì dei militari e subiscono un attacco, cosa che non è auspicabile ovviamente, che fanno? Rispondono all'attacco, dunque siamo in guerra. Tutto questo forse dovrebbe passare dal Parlamento, non lo so già come prima cosa. Secondo me, vedi, fa parte un po' della strategia di cui dicevamo, l'aver assunto questo impegno, sì certo, uscito sul giornale, ma senza tutta l'importanza del confronto pubblico che meritava una cosa di questo genere. Fa anche parte questo, no, dello storytelling, cioè questo è un tema delicato, meglio farlo, perché nel concerto internazionale, per carità, l'Italia fa tantissimo più di tanti altri, però cioè farlo, ma non si può mai passare sotto silenzio il fatto che 450 ne parliamo, militari, ecco, debbano andare in Iraq. Comunque ci sono degli ascoltatori, c'è Massimo che ci chiama da Modena, buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti quanti e auguri di un buon Natale sereno anche a lei. Pronto? Dica, grazie anche a lei Massimo, dica pure. Niente, volevo solo fare un piccolo appunto che poi è una congettura a riguardo dell'affermazione che sui mass media il signor Renzi ha fatto per quanto riguarda che i parlamentari del Movimento 5 Stelle se ne sono andati a casa, se sono ammalati. Io conosco personalmente due deputati che sono rimasti in aula costantemente, come procedura tengono informata la base di quello che avviene, e vi posso garantire, questo poi viene anche pubblicato sui social per dare diciamo un'immagine e una trasmissione corretta dell'informazione, che loro alle tre erano ancora in aula, che stavano votando un decreto che riguarda l'area di cratere che è stata interessata dal terremoto in Emilia Romagna per poter avere una proroga per quello che riguarda il pagamento delle tasse. Ma so Massimo, va bene. No, va bene, ma posso dire che secondo me questa è una polemica veramente di livello minore, cioè rispetto ad altre cose. Vabbè, lei ci dice, ma poi ci sono i resoconti parlamentari, basta andare a vedere chi c'era, chi non c'era. Però lei dice, ne conosce due che erano lì, non erano presi dalla febbre del sabato sera. Voi non sapete quante volte è stato colto Oscar Giannino. Comunque, detto questo, è vero che come tipo di accusa il Presidente del Consiglio non è un granché. Ma no, è più una, io la vedo più come un'accusa slogan, come una di quelle rientra in quelle battute a effetto che, sì, di cui Renzi è capace quando fa prestazioni televisive, ne dice, ne spara comunque 3-4 che rimangono appunto impresse e fanno notizia, no? La febbre del sabato sera. Fanno notizia, non lo so, forse più. Fanno notizia più tempo, ormai a me sembra un'arte un po' consunta, devo dire. Quella dello storytelling? Sì, molto. Molto. La Leopolda è stata una crisi evidente. Se non se ne sono resi conto, peggio per loro, ma è così, è evidente che è così. No? Tutta questa storia sui trascinanti risultati economici, poi alla fine prevale chi fa una lettura più seria e razionale, e alla fine ha ragione. Quindi poi, quando arriva l'anno e l'1,1, l'1,2, l'1,3, promesso non c'è, ma c'è lo 0,7, 0,8, la cosa la gente inizia ad applicarla anche quando lo sente parlare per l'anno prossimo. È inevitabile che sia così. Comunque, messaggio per Oscar Giannino: non è vero che l'agenzia è entrata ingiusta. Ho ricevuto un rimborso tasse di 14 euro relativo al 2004. E si chiede l'ascoltatore quanto sarà costato questo accertamento a tutti noi. 14 euro relativi al 2004. Sei un uomo di poca fede, caro cardinale Giannino, sei un uomo di poca fede. Non c'è dubbio. Perché l'agenzia credo che l'agenzia delle entrate molto più adesso voglio difendere, molto più di sua eminenza Bertone faccia tante cose a sua insaputa, devo dire proprio. Allora, dopo la pubblicità parliamo di Iraq, avremo Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, che si trova in quelle zone, sta facendo degli straordinari reportage, sì, il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, tra poco. Allora, caro Oscar Giannino, 8 e 37 minuti, siamo qui, eh? Siamo qui, malgrado l'agenzia delle entrate ci siamo ancora. Malgrado l'agenzia delle entrate, ma no, certo. Allora, da qualche giorno, sul Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, inviato, il Corriere sta facendo, a mio modo di vedere, degli straordinari reportage. Tra l'altro Lorenzo Cremonesi è in collegamento con noi, le linee sono ballerine, ma adesso funzionano. Lorenzo, buongiorno, intanto dove ti trovi tu? Buongiorno, grazie per le simpatiche parole. Mi trovo a sud di Samishli, che è, diciamo, la città più grande della zona curda siriana, quindi nel nord-est della Siria, al confine con la Turchia, ma siamo giù, siamo a 50, anzi di più, a una sessantina di chilometri a sud, proprio verso le prime linee con ISIS, con il califfato. Zone che tu, insomma, hai lambito, si può dire, hai visitato e di cui hai raccontato. Cerca di raccontarci, perché si parla sempre dell'ISIS, ma tu sei lì, insomma, lo puoi vedere negli occhi. Cos'è l'ISIS? Ma l'ISIS è un mostro a due teste. L'ISIS ha una realtà occidentale di cui parlo poco, che è quella degli attentati di Parigi, dei volontari che arrivano dall'estero, che si muovono sulla rete, che surfano come fanno tutti i giovani di oggi, musulmani magari di terza, quarta generazione emigrati in Francia, insomma in Europa e in Occidente. Questo è un ISIS. E poi c'è l'ISIS originario, l'ISIS vero, l'ISIS medio orientale, da dove tutto nasce, che è un ISIS politico. Cioè noi dimentichiamo spesso che ISIS ha una profonda realtà, come dire, un profondo radicamento sul territorio, nasce per motivi molto, molto pratici, molto semplici da dire, nasce dal malcontento sunnita che esplode in Iraq dopo la guerra del 2003, dopo l'invasione del 2003, e quando i sunniti, che sono storicamente una minoranza ma comunque sono sempre stati classe dirigente dell'Iraq fin dagli inizi del periodo ottomano, quindi da oltre 400 anni, da 500 anni praticamente, e poi nasce in Siria a seguito dell'inizio della primavera araba cosiddetta del 2011, quando masse di popolazione sunnita si rivoltano contro la minoranza alawita del presidente Assad, quindi di sciiti, e che vengono brutalmente perseguitati. Quindi questi due malcontenti, da una parte il malcontento sunnita in Iraq, della minoranza in Iraq, e il malcontento della grande maggioranza sunnita in Siria, si produce, congiungono, si sposano con questi elementi wahhabiti estremisti, con l'arrivo di Al-Qaeda, la brutalizzazione feroce del governo di Bashar al-Assad che spinge le masse ad armarsi, e da lì nasce il... Però si può dire, Lorenzo, o è sbagliato o è una forzatura, si può dire che la parte operativa, quella che rende diversa e di successo la strategia di ISIS o Daesh rispetto a Osama Bin Laden e il qaedismo, sta nel fatto che alcuni generali, tenente colonnelli, cioè persone di primo livello dell'entourage di Saddam Hussein, per l'errore commesso dagli americani, sono la spina dorsale del comitato politico, di quello comunicazione, reperimento risorse. È così oppure no? Ma direi che è giustissimo per le prime fasi di ISIS, alla nascita. Sì. C'è questo fortissimo nucleo di generali battisti, ex battisti, che creano l'asse militare, che sanno combattere, che hanno combattuto con l'Iran per 10 anni negli anni 80, che hanno le armi, perché non dimentichiamo che gli americani non li hanno disarmati nel 2003, tutta la zona di Al-Anbar, Fallujah, Ramadi, dove oggi si sta combattendo, praticamente non è stata mai toccata dagli americani, proprio per un accordo con le tribù del 2003, e questi certamente sono l'asse portante che utilizzano ISIS, cioè che utilizzano i giovani che arrivano dall'estero, questi wahhabiti fanatici, questo terrificante terrorismo anche mediatico che questi usano, come strumento per recuperare potere e forza nell'Iraq sunnita. Comunque certamente c'è questa componente. Io aggiungerei che ha anche delle fortissime contraddizioni, perché non dimentichiamo che i battisti erano un elemento laico che addirittura magnificava, glorificava il passato sumero, assiro babilonese. Se c'è stato un regime che ha esaltato i resti archeologici, era quello, è stato ISIS li abbatte a martellate, vengano distrutti. Esatto, oggi accettano tutto questo perché loro dicono: guardate, usiamo questi wahhabiti, questi pazzi, che sono una minoranza, perché poi dicevo, a loro si sono aggiunti queste brigate terrificanti, volontari di qaedisti che arrivano dall'estero, che arrivano dall'Algeria, dalla Tunisia, dall'Afghanistan, dalla Cecenia, li utilizziamo e poi quando avremo vinto li butteremo fuori via. Non capendo che poi di fatto questi qua ormai hanno il monopolio e quindi sarà molto difficile. In questo contesto, come hai detto tu, c'entra anche l'Iraq. Allora, noi vogliamo salutare anche, ci sta ascoltando e ti stava ascoltando, Lorenzo, il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, che è un generale. Buongiorno generale Rossi e bentrovato. Buongiorno a lei e anche ai nostri ascoltatori. Perché noi abbiamo saputo dalla viva voce del Presidente del Consiglio che 450 militari italiani torneranno in Iraq, a Mosul al nord, dove c'è una diga da proteggere. Allora generale, ci dica qualcosa di più: quando, come, perché? Ma guardi, intanto se mi consente una premessa, noi dobbiamo inquadrare la missione che potrebbe partire, previo ovviamente avallo parlamentare, sulla diga di Mosul, nell'ambito della strategia globale del nostro paese a fronte di una minaccia terroristica che non è ovviamente localizzata ma è globalizzata, ed ecco perché noi siamo presenti dall'Afghanistan al Libano e quindi anche all'interno della coalizione contro ISIS, a cui ricordo siamo fra i paesi che maggiormente fornisce personale, perché noi già abbiamo 750 persone in atto che forniscono sia la parte di ricognizione e individuazione degli obiettivi agli aerei della coalizione, e lei mi insegna che prima di bombardare è assolutamente essenziale capire e sapere che cosa si bombarda. E non solo, abbiamo una grossissima componente airbill di addestratori, e sono quegli addestratori che hanno addestrato i peshmerga che poche settimane fa hanno riconquistato Sinjar, e più i carabinieri che stanno addestrando la polizia locale man mano che si liberano dalle zone. Quindi questi mi dicono. La strategia della diga di Monsul si inquadra in una strategia più globale. Respiro e di più globale, e questo credo che fosse un punto essenziale da mettere in rilievo. Ricordiamo che la diga di Mosul a questo punto è un impianto strategico per l'Iraq, per la popolazione irachena, perché se mai dovesse crollare sappiamo quali sono gli effetti e il disastro di natura ambientale che si riporterebbe fino a tutto ciò, sottosegretario, passerà attraverso un voto del Parlamento? Sicuramente noi andremo in Parlamento a spiegare quali sono le nostre ragioni affinché ci possa essere poi una decisione sulla quindi sì, attraverso, quindi è un sì, cioè bisognerà approvarla da parte del Parlamento. Il rischio è andare in una zona di guerra, cioè nel senso, torniamo in guerra, questa è la questione, è la domanda che si pongono gli italiani. Torniamo in Iraq, cioè non torniamo formalmente in guerra, ma se ci attaccano, per dire. No, mi pare che avranno tutta la necessità e il dovere, e spero anche che abbiano equipaggiamenti adeguati a potersi difendere al meglio. Ecco, su questo, non per interrompere, vorrei dare l'assicurazione, perché è evidente che lo scopo principale comunque del dicastero e anche della parte tecnica è quella di assicurare certamente la protezione a chi deve fare gli interventi sulla diga, ma evidentemente la sicurezza del personale impiegato. Questo sì, però so che Lorenzo Cremonese è stato vicino alla diga 2 giorni fa, 3 giorni fa, o no, Lorenzo? Sì, dunque, vi do un'informazione che arriva adesso dai media di Baghdad questa mattina, che mandava il mio collaboratore. Non è ancora certo che i militari andranno, perché per esempio adesso c'è stato un incontro, secondo i media di Baghdad questa mattina, del nostro ambasciatore a Baghdad con qualcuno del Ministero degli Esteri o della Difesa, non ho capito, iracheni, che gli hanno detto: ma guarda che effettivamente noi non abbiamo bisogno di altre truppe straniere sul terreno, loro sono ben contenti dell'appoggio aereo della coalizione, ma sono abbastanza restii, come abbiamo visto con i turchi l'altro giorno, di avere truppe straniere e bastano i nostri uomini. Quindi, non è detto che da parte irachena ci sia questa richiesta. Ci sia questa richiesta, arriverà piuttosto da parte curda, ma come sappiamo qui c'è il contenzioso, perché qui siamo veramente in mezzo a un nodo politico, cioè tra i curdi che hanno una loro politica estera, che cercano di dimostrare che sono un semi-stato, comunque un'autonomia accentuatissima, e il governo di Baghdad contrarissimo, che invece continua ad avvocare a sé la propria sovranità anche su Iraq del nord. Detto questo, la zona, come abbiamo visto anche nelle battaglie dell'ultima settimana, è estremamente volatile. Gli iracheni continuano a dire che davanti agli italiani ci sono, come già ci sono, tutta una serie di posizioni delle loro truppe, insieme ci sono anche, sembra, delle forze speciali americane che sono più o meno da appoggio, consiglieri a vario titolo, anche se non erano canadesi. E però loro dicono: ci occuperemo noi della difesa. Attorno alla diga c'è tutta una serie di villaggetti sunniti. E questo perché ormai si arriva verso Mosul, siamo a 30 chilometri da Mosul, e questo è il vero problema, perché da questi villaggi, che sono semi abbandonati, semi vuoti, ci sono stati potrebbero partire anche qualche potrebbero, ma soprattutto io direi che il pericolo lì sono le mine. Le bombe più o meno artigianali piazzate sulle strade, sui luoghi che dovrebbero essere percorsi dai nostri mezzi. Comunque, insomma, lei, sottosegretario, ci ha confermato che ci sarà un voto del Parlamento. Si presume quando dovrebbe tutta questa procedura portare i militari italiani, anche se ha sentito, insomma, dall'Iraq forse questa richiesta non proviene, ma quando potrebbero arrivare sul suolo iracheno? Beh, guardi, in questo momento non siamo in grado di dirlo, anche perché evidentemente c'è tutta da svolgere, tutta l'attività ricognitiva, nonché da parte degli stati maggiori da fare la pianificazione tecnica, che evidentemente è molto importante sia per la definizione degli uomini che dei mezzi e dei materiali anche di difesa che possono servire. Certo. Va bene, sottosegretario, la ringraziamo, così come ringraziamo Lorenzo Cremonesi. Leggete i suoi reportage sul Corriere davvero della Sera anche oggi per quello che fa da Kobane, città all'80% distrutta. Kobane, no? Dove i curdi esempio, abbiamo appreso che la cui ricostruzione, riflessione, eccetera, è affidata a una donna di meno di 30 anni. A una donna di meno di 30 anni, allora, caro Oscar, c'è Francesco da Pisa che ci ha chiamato. Buongiorno, Francesco. Francesco, ma hai anche tu l'impressione che questa, come abbiamo capito, che l'annuncio degli italiani sulla diga sia un puro titolo sul giornale di Renzi? Perché hai sentito che il generale Rossi ci ha detto, ma siamo molto indietro. Renzo Cremonesi dice, ma a Baghdad veramente ci sono dei dubbi che si possa andare, per cui sono tutte dichiarazioni di facciata. Beh, sì, questo per il momento appare, ma vediamo ovviamente che succede. Sì. Lei ci voleva chiamare su questo? Proprio su un intervento di facciata che è stato fatto da Visco ieri sera alla trasmissione di Spazio. Da Visco, ho capito bene. Che impressione le ha fatto? Ma diciamo, io sono un operatore, ora sono libero professionista, ma ho lavorato per tanti anni in una banca italiana. E le dichiarazioni che ha fatto Visco ieri sera, come sempre la Banca d'Italia opera correttamente, la Banca d'Italia opera politicamente con tutti gli intrecci politici che ci sono all'interno delle banche. Applausi da parte mia, Francesco, sono d'accordo. Quando è stato fatto l'intervento sul Monte dei Paschi, ieri sera Visco ha fatto un intervento e ha detto: noi Banca d'Italia abbiamo fatto pressioni su manager, vecchi manager del Monte dei Paschi affinché si mettessero, perché si è visto che il management non aveva operato correttamente. Bugia. Esatto. Bugia clamorosa. Banca d'Italia sapeva benissimo dei contratti effettuati. Banca d'Italia non ha fatto nessun controllo quando il Monte dei Paschi ha comprato Anton Veneta e non ha verificato che le somme offerte fossero corrette. Banca d'Italia poi ha dovuto apprendere dalla procura, secondo la versione ufficiale iniziale, dell'esistenza di Alexandre eccetera, dicendo ma gli era sottratta, non avevano capito nelle ispezioni. C'è una dichiarazione di Banca d'Italia di gennaio del 2013 dove Banca d'Italia dice soltanto oggi noi veniamo a conoscenza di tutti i fatti. Insomma, lei, Francesco, vedendo questa intervista, dice non l'ha convinta per niente. Ci sono tantissimi italiani che, siccome conoscono i fatti, se no come professionalmente, non possono abboccare a questa strategia del vogliamoci bene, va tutto bene, chi ci critica vuol male all'Italia. Ecco. Franco ci chiama da Roma. Buongiorno, Franco. Buongiorno. Come sta il prefetto Trunca? Spero bene. Sì. Noi combattiamo con le targhe alterne. È vero, oggi è il giorno di targhe alterne. Oggi? Mannaggia. Anche domani e forse anche nei prossimi giorni. E lei ha piedato oggi oppure c'ha la targa giusta? No, oggi avevo la targa giusta. Oggi è dispari, bene. Vada, Franco, no, dica. Pari, oggi pari. Ma oggi è il 21. Sono le dispari che sono bloccate. Funziona giustamente. Dispari e quindi le dispari non va. Allora, per cosa ci chiamo? Volevo riallacciarmi a un messaggio che vi ha venuto un altro ascoltatore. Anch'io ho ricevuto un rimborso fiscale relativo all'anno 2003. 2003? Quindi 2003. Lei è anche più. E di quanto questo bel rimborso? Ce l'ho in mano. È di 29 euro e poi ci sono 6,78 euro di interessi. Quindi fanno ben 35 euro. Una bella del pizza 2003. Stasera pizza assicurata. Ne vogliamo parlare del e quando 2003. L'ha ricevuto, cosa ha pensato, Franco? Nei giorni scorsi veramente ero un po' preoccupato perché l'agenzia delle entrate certo, subito. Però devo dire, la cosa curiosa è che io mi faccio autonomamente le dichiarazioni dei redditi e sono andato a prendere quella competente e non ho capito perché mi avevano rimborsato questi soldi. Vabbè, non si faccia troppe domande, però, Franco, si intaschi questi 35 euro. Non tema, la comunicazione che è un errore in cui le chiederanno di rimborso con gli interessi arriverà molto prima che passino altri 13 anni, questo non tema. Non si faccia troppe domande, si goda questi 35 euro, una bella pizzata e via, insomma. Chiedere anche a Giardino, che so che è esperto, insomma, se mi conviene, come ho tempo fino a giugno dell'anno prossimo per riscuoterli, aspettare un attimo. No, guardi, riscuota... immediatamente, no, ma capisci perché l'attitudine è ti bruciano tra le mani, dici mio Dio, questi mi tireranno in ballo chissà che cosa adesso. 35 euro, ma chissà se faccio bene a prenderli, poi mi accusano di appropriazione indebita, se li prende, allora, se li spenda, capisci che Equitalia, l'agenzia delle entrate che fa la patetica cosa nel Natale, siamo buoni e non vi mandiamo le letterine. Questo in realtà è quello che pensano, allora, gli italiani. Allora abbiamo un dai, minuto, vogliamo dare gli Oscar, diamoli, in chiusura, diamoli, dai, diamoli. Io voglio dare l'Oscar. And the Oscar goes al governo norvegese. Bravo. Perché hanno fatto, siccome ci sono tanti migranti, li fanno il corso, soprattutto quelli che provengono da zone dove Bravo. Vedono donne velate. Esatto. Cari uomini, le donne, se vogliono fare sesso, devono acconsentire a questo. Oppure, cari immigrati, qui la legge è svincolata dalla religione, siamo in Norvegia, non abbiamo la Sharia. Ecco, li fanno tutti questi corsi, quelli che dicono razzismo. Una no, bella cosa. No, sono giusto, d'accordo. Giustissimo. Forse la prima parte del corso va fatta anche agli italiani in Italia, ecco, sul fatto che ci sono consenziente. Io invece lo do, appunto, l'ho citato prima, ringrazio Giuseppe Salogino della Stampa, perché fa un articolo oggi sulla Stampa di Torino ed è un appello a creare le condizioni amministrative per riaprire l'ospedale israelitico di Roma, che è chiuso dalle indagini per via dell'ex capo dell'INPS, orrendo, Mastrapasqua, 100 posti letto, 700 dipendenti, bisogna rimetterlo in condizione di riaprire, e viva la Stampa che se ne occupa. E allora, caro Oscar, noi ci troviamo domani regolarmente fino al 24, certamente. Siamo qui. Ciao.